Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci siamo. È venuto il momento di sentire una voce straordinaria. La presenteremo tra qualche istante. Prima di tutto, i miei più cordialissimi saluti di una buona serata a tutti voi all'ascolto di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme al mio fedele compagno. Ci sei? Sì, buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, sono presente, ci perché sei. Noi non andiamo mai in ferie. Mai in ferie. The show must go on, lo spettacolo deve sempre continuare, vado anche via, ad agosto. Vado via qualche giorno. Beh, purtroppo vai via qualche giorno, però ritorni. Sì, ritorni. Assolutamente. Faremo un agosto pieno di live, ovviamente, come sempre. Allora, dicevo, prima di cominciare questa serata, che secondo me sarà straordinaria perché straordinaria è l'artista accompagnata da straordinari musicisti, vi ricordo alcuni dati tecnici della nostra emittente. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, allora, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS, questa sera se volete mandare e fare anche qualche domanda alla nostra ospite, siete liberissimi di farlo, ovviamente, mandare anche qualche saluto, perché no? Ve lo ricordo, prendete carta e penne, quindi 346 23 20 033. Questo è il numero per mandare i vostri SMS. Agostino, non vedo l'ora di cominciare, quindi do subito un saluto, perché sono veramente fiero ed onorato di avere qui una delle, secondo il mio punto di vista, modestissimo, una delle più grandi artiste italiane della musica italiana. A chi mi chiedeva cosa fai, cosa canti, ho sempre detto a tutti, scusami se mi sono permesso, è una Fabrizio De André in versione femminile. Ciao Rebi Rivale. Ciao, buonasera a tutti. Ho detto male? Hai detto troppo, è tantissimo, è un paragone altissimo, mi fa piacere, ma insomma, De André era De André. E tu sei Rebi. Certo. Allora, benvenuta. Grazie. E grazie di aver accettato il nostro invito a fare questo live, questa serata, a presentarci la tua musica, le tue canzoni. Com'è andato il viaggio? Tutto a posto? Tutto bene? Viaggio tutto a posto, tutto ok, sì. Quando uno porta gli strumenti simili deve andare sempre tutto a posto, vero Davide? Ma sì, diciamo che i tir facevano fatica a contenerlo. Sì. Dopo, adesso abbiamo le telecamere accese che sta predisponendo la Chiara, che salutiamo, che è la nostra fotografa anche. E questo strumento meraviglioso che poi suonerà Davide, ma anche le due chitarre di Ornella e di Rebi sono strumenti meravigliosi, ma quello è uno strumento decadente, lo amo per quel motivo, è decadente nel senso, ha una musicalità molto particolare, il contrabbasso è una cosa meravigliosa. Una voce profonda. È una voce profonda, esattamente. Allora, chi è Rebi Rivale? Rebi Rivale vorrebbe essere una cantautrice che canta storie. Noi diciamo sempre che portiamo in scena delle storie, perché cantiamo spesso di personaggi reali o inventati, della letteratura piuttosto che della fantasia, attraverso i quali cerchiamo di lanciare un messaggio, molte volte provocatorio, molte volte nell'intento di rovesciare un punto di vista, e quindi questo è quanto per il momento, poi vedremo. Tu hai fatto una dichiarazione molto interessante, hai detto questo: esco da una scatola in cui se qualcosa è mancato mai è stata la musica. Questo descrive pienamente musicalmente chi sei. Sì, la scatola in realtà è quella scatola molto ampia che è il mondo esterno. Sì, è la esattamente. E la musica è stato un mondo interno che poi è diventato anche il mio mondo fuori, nel senso che sono dovuta scendere negli scalini dentro per poi risalire e scoprire qual era il mio mondo. Okay. E quindi sì. E poi hai bisogno sempre di scrivere, non stai bene se non scrivi. No, è vero, così, vero? È vero, è vero. Una cosa proprio che ti prende immediatamente. Quando hai scritto un pezzo, poi ne scrivi subito un altro perché hai bisogno di correre, di rincorrere questo pezzo nuovo. Sì, sì, è un'energia. Quando si scrive una canzone è un'energia. E non penso neanche che sia tutta mia. Ah, ok. No. Le cose che si osservano e che si vogliono scrivere o che ti danno l'input poi si cantano da sole, nel senso le parole arrivano e in molto poco tempo si stampano, si scrivono sulla carta, dopodiché si riconsegnano, quindi... Certo, quando abbiamo sentito io e Agostino, il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che poi arriverà, che salutiamo, questo disco siamo stati decisamente mossi da un'idea, le varietà notevolissime che ci sono nelle diverse canzoni. Tu fai una chiave di volta e poi la cambi completamente, poi ritorni alla chiave di volta precedente. E quello è complesso, nel senso stesso affascinante. È difficile equilibrarti, cioè distringerti. Assolutamente non è possibile, secondo me. Che dire, che dire. Vorrei dirti che sono bravissima, che me le studio veramente a tavolino e che veramente è studiato al dettaglio questo. Non è vero. Appunto, non deve essere studiato al dettaglio. Nascono, noi suoniamo, io canto e loro mi accompagnano nella stessa maniera, con lo stomaco, io lo dico sempre. Di conseguenza è un movimento dell'anima, è un movimento ma quasi che prende il corpo, nel senso, e c'è bisogno a volte di una battuta d'arresto che poi riflette un po' la riflessione. E poi di una ripresa, di un galoppo nuovo. Quindi... Ma gli archi fanno molto bene allo stomaco, secondo me, nel tuo disco. Ma moltissimo fanno bene. Fanno molto bene allo stomaco. Beh, sì, gli archi sono un tocco nel disco che cerchiamo di riproporre diversamente live. E in questo un po' Ornella, un po' Davide, riempiamo, abbiamo riempito, secondo me, e soprattutto in certi pezzi, molto, molto meglio del disco a livello proprio di sentire personale. Certo, beh, gli ascoltatori non lo sanno, ma io e Agostino li abbiamo sentiti provare qualche minuto fa. Sì, infatti. E vanno al di là del disco, quindi dovete assolutamente ascoltare fino alle 22:30. E il bello è, svelo un segreto, Raibi, perdonami, ma sono le parole tue. Allora, quando l'ho contattata, Maurizio, tu dovresti saperlo. Io ho detto, fammi per cortesia, fammi avere il tuo disco perché così possiamo ascoltarlo. E lei mi fa candidamente, e io te lo mando il disco, ma guarda che non mi rappresenta del tutto perché c'ho moltissimi altri pezzi. È vero. Io è arrivato al disco, l'ho sentito, sono rimasto colpito, veramente, te lo dico anche in diretta, hai fatto un disco stupendo. Grazie, io ti ringrazio molto. Perché mi ha preso tantissimo, veramente. Lo vogliamo ascoltare già un pezzettino, una canzone, anzi, abbiamo scelto La Scelta? Sì. Che tra l'altro è una delle canzoni che amo di più di questo disco, vero? Mi senti? Ti sento. Mi senti, benissimo. Allora, ascoltiamo La Scelta da questo disco che porta il suo stesso nome d'arte, Raibi, Rivale. Si finge di scordare il tempo. Aiuta a rimanere immobili dove si sta. Interrogarsi a volte è peggio. Si rischia di non aver scelto e dirsi tutta la verità. La verità è sinonimo di scelta. Si preferisce a volte non guardarla. Se allora è questo il punto, fermo tutto. E se trovo un po' di forza, apro e scendo. Adesso c'è da andare in fondo, a rovistare tra la merda ricoperta di bugie. È quasi come fare il conto, sommando tutti i giorni vissuti, buttati via. Buttati via pensando tanto è inutile combattere se sai che devi perdere. Se allora è questo il punto, cambio. E se trovo ancora forza, io riparto. Thank you. La verità è sinonimo di scelta. Succede che ti chieda di salvarla. E adesso è questo il punto e non c'è altro. E con il fiato che mi resta ricomincio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera questa sera, giro di parole con Rebe Rivale. Mi sono dimenticato prima di ricordarvi il nostro sito che è www.bluradioveneto.it, dove potete ascoltarci in streaming. C'è la famosa ormai stringa rosa, sotto c'è scritto streaming, sotto c'è una freccia piccolina nera sulla sinistra, cliccando lì accederete direttamente allo streaming audio. E poi abbiamo anche le telecamere, le webcam, quindi siamo collegati anche in internet via video. Rebe, ti vedono in tutto il mondo. diretta rockaway.tk, questo è il nostro sito per vedere appunto la Rebe cantare, suonare assieme a Davide Sciacchitano e a Ornella Tusini, che sono i musicisti che accompagnano questa grande artista italiana, che tra l'altro sei in finale in un sacco di concorsi. Siamo in finale, siamo in finale a tanti concorsi, quest'anno è un bell'anno di soddisfazione, sì. Ma te lo meriti probabilmente. Grazie, grazie. Sei in finale anche quello di Poggio Bustone con la nostra cara amica Amelie. Sì, siamo in finale insieme a Poggio Bustone il 9 settembre in provincia di Rieti, appunto a Poggio Bustone, con la finale ai Giardini di Marzo. Hai vinto Amnesty? Sì. Abbiamo vinto con il pezzo Se sarà femmina il primo premio nella sezione musica dei Walking Rights di Amnesty International, sì. Sì. Bravissima, che emozione penso da parte tua. Sì, molto. Parliamo di questa traccia numero 5, sì. La scelta. Sì. Io faccio questa ipotesi, sono 13 tracce, la scelta è la traccia numero 5, quasi alla metà. È una questione così casuale o una questione voluta, traccia numero 5 alla metà del disco? No, sono state scelte, è stato voluto tutto il percorso che srotola questi 13 brani. Ho capito, e quello doveva essere proprio in quella posizione là. Al numero 5. Al numero 5, benissimo. E questo gioco bello, bel gioco della doppiezza della voce, come è nata l'idea? Musicalmente, come l'hai orchestrata? Dove è partito? Un riff, un'idea di fare è così? È partito un riff e il gioco di salire di un'ottava piuttosto che... Io gioco spesso con la voce, anche con i controcanti che purtroppo dal vivo non riusciamo a fare, se non per certe cover, ne parliamo più tardi. E quindi è nato questo gioco di giocare appunto sul timbro molto basso e poi di dare un contrasto. E la scelta è una canzone molto intima. Io sono contenta che voi l'abbiate scelta, scusate il gioco di parole, perché poche persone si soffermano su questo pezzo qua. E invece secondo me è molto intimo e molto intenso, e quindi sono molto contenta, sono molto grata di questo. È stato difficile costruirlo musicalmente questo pezzo? Il testo sappiamo, è tuo il testo, tutti i testi tuoi hanno un certo percorso, ma musicalmente mi interessa sapere questo. Musicalmente è stato più difficile che non per scrivere il testo, questo sicuramente, ma perché io ammetto, io ho un limite a livello musicale, nel senso io sono una musicista autodidatta, sì. Suono in accompagnamento, i musicisti sono in questo caso Ornella e Davide. Certo. Quindi per me faccio sempre più fatica con la musica che non con le parole. Però guarda, come ti dicevo prima, poi a un certo punto viene da sé. Ah, cioè, la parola che richiama l'accordo e l'accordo che mi chiama la parola, quindi si chiude il cerchio immediatamente. Sì. Benissimo. Allora, a questo punto io direi di ascoltarla. Indubbiamente. Dal vivo. Certo. Beh, guarda, abbiamo parlato della doppiezza della voce, noi sempre di doppiezza parliamo col prossimo pezzo e vorremmo cantare Mr. Hyde, che è appunto la storia, la famosa storia, lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, però visto dal punto di vista del mostro di Edward Hyde. Anche qua ci sono giochi di timbri e di contenuti soprattutto. Vengo alla luce un eufemismo, perché non vedo il sole mai. Sono la notte del suo specchio, per chi mi cerca, Edward Hyde. Indosso gli abiti dell'altro, perché sta stretto dentro i suoi. Meraviglioso quest'incesto, e nel suo sangue c'è il mio sangue ormai. Non ha coraggio quel dottore che mi rinchiude dentro sé, per non vedersi nel suo male, per non sentire quel che invece c'è. Ma che gusto sentirlo pregare, implorare il Signore, per poi bestemmiare e gridare il mio nome ingoiato a sorsate, vuotando un bicchiere di sale, di sale. Ballo che ballo infernale, frenetico istinto di questa natura, guardare il dolore e danzare, danzare sul filo affilato di nervi di schiuma. Alternativa alla coscienza, al perbenismo degli eroi. Il mio piacere è la risposta, sventro la vita e non mi sazio mai. Come vigliacco quel dottore che vuole quello che non fa, ha reso firma le sue scuse, poi mia per sempre la sua metà. Che ardore sentirmi arrivare giù lungo le vene, che spasmo di corpi, che trasformazione, assolto per sempre da quella pozione di sale, di sale. Che forza, che musica il male, che stupro allo stomaco quello che muove. Che importa se il prezzo è che devo morire, la forca è un delirio che fa dondolare. Può morire Edward Hyde. Che grande, grande, grandissima. Grazie. Io so che questa canzone ha partecipato anche qui al festival, concorso qui alle Risonanze, se non sbaglio. A Esperimento Risonanze Unplugged abbiamo portato quattro pezzi che sono stati Mr. Hyde, Caso Campana, La Ballerina e un quarto che al momento esce Simone. Esce Simone, sì. Quindi era fra i quattro, sì. Questo pezzo è molto bello, noi abbiamo scritto nella recensione perché mi ricordava, aveva un trend tendenzialmente di musica popolare, siete d'accordo su questo? Beh, sì, dipende cosa intendi per musica popolare. Musica che prende un po' del folk. Sì. Popolare in quel senso. Sì, sì, sì, certo. E c'è quell'andamento, un andamento positivo. Non è il folk, la musica popolare in quel senso là, più inglese che non americano, secondo me. Molto inglese, tu sei, hai citato anche un pezzo francese, hai fatto anche un pezzo francese, però tendenzialmente quando parli di folk, quando intrecci degli accordi di folk, a me ricordi molto la musica folk inglese. Certe ballate folk inglese, alla Sandy Denny, I Fall for Convention, quello là, le stile Ice Pen, quella voce là, particolare, un po' decadente, perché ho citato il contrabbasso, okay. Però è positivo secondo me. Bene, bene. A me ricorda una danza. Anche una danza. Dai, devi avvicinarti al microfono. Avvicinate il microfono. No. Prendi quello là, prendo quello là, esatto. Hyde mi ricordo una danza. Sì, quindi una danza irlandese, una danza inglese. Forse la brughiera nebbiosa londinese. Quindi inglese praticamente. Sì, quindi sì, sì. Il folk inglese, tra virgolette chiaramente, sempre tra virgolette, perché sono cose tue, assolutamente tue. Con qualche punto di riferimento, ma è positivo, qualche input che arriva, ma una cosa assolutamente bella, secondo me. Beh, io ti ringrazio, sono solo complimenti, quindi andiamo a casa gonfi e tronfi proprio. Sì, ma complimenti perché sono meritate, la musica è molto bella, i testi sono straordinari. La musica che i testi vengono portati avanti dalla musica è una cosa molto importante, secondo me. Bene, in questa dimensione. Grazie, sì, ma effettivamente nascono così, non riuscirei a dire. Dovrebbe essere creata prima la musica, se proprio dovessimo seguire il protocollo. Ecco. Come fai come Battisti, insomma? Come insegna Mogol, esatto. Dovrebbe nascere prima la musica e poi a seguire le parole. Certo. E, a me è successo di farlo, devo dire che quelli più di cuore, di pancia, sono insieme. Ho capito, quindi, benissimo. Come nascono le tue canzoni, Reddy? Cioè proprio i testi parlo io. Nascono perché leggo qualcosa o guardo qualcosa o ascolto qualche cosa che mi tocca particolarmente. E ci sono dei momenti in cui la chitarra non la guardo neanche, dei momenti in cui devo assolutamente averla sotto mano, perché mi nasce qualcosa e devo subito metterla giù, perché poi è un tempo determinato, sono 20 minuti, è come quando si prende il sole, no? Poi in realtà sono 20 minuti quello in cui si può prendere, e quindi se ho la chitarra sotto mano nascono da sé, nascono le parole, poi ho molte immagini, questo mi aiuta. Nascono le immagini, poi da sé un ritornello che quindi poi decido se è ripetuto, quindi se deve essere ripetuto e quindi sai un po' tarmare oppure se può cambiare, se devono esserci delle variazioni e nascono. Io non saprei dirti a tavolino come nasce una canzone, non è ti viene così spontaneo, mi quello viene, che capita sì, in qualsiasi sì. momento della giornata. Beh, se ho la chitarra riesco a fermarla, se non ho la chitarra a volte mi nascondo col telefono, magari canticchio una cosa che ho in testa, sono piena nel telefono di file audio e poi quando mi viene, quando mi torna, anzi, certo. L'ispirazione la metto giù. Ma di solito l'ispirazione sei anche tu che viene sempre di notte principalmente? Ma una volta vivevo di notte molto di più di oggi e quindi sì, oggi mi viene anche durante il giorno, la mattina, la sera. È vero che di notte si lavora meglio, non suonano i telefoni e non ti cerca nessuno. Non ci sono rumori e il tempo è dilatato e quindi sì, si lavora meglio di notte. Sei più concentrato. Sì. Poi ha detto una frase molto positiva a proposito di Davide e di Ornella. L'obiettivo è di continuare a scrivere e comporre insieme a Davide e ad Ornella, che riescono a cucire sui miei brani abiti da favola. È vero. Quindi. È vero. Io ho iniziato a suonare un anno fa con Ornella. Con Ornella, sì. Quindi in occasione della finale di Botteghe d'Autore dell'anno scorso. E quindi era un esperimento, non si sapeva nemmeno se si sarebbe andate avanti. Ci siamo trovate bene, siamo andate avanti, poi ad un altro concorso a febbraio di quest'anno abbiamo conosciuto Davide, sì. Esatto, che faceva parte di un gruppo lui. Lui fa parte, di, un fa parte di un gruppo straordinario, sono i Luna in Quarto che hanno vinto il premio Friul. Ah, sì, sì, sì. Sono veramente in gamba, fanno una musica bellissima. E possono venire anche qua. Certo, certo. Vi esorto, vi invito ad ascoltarli perché sono veramente L'ho in gamba. L'ho già ascoltato qualcosa su YouTube. Perfetto. Sai. E quindi già con Ornella uscire dal mio riccio e assegnare poi a Ornella, poi essendo una musicista l'ho sfruttata. Che contributo ti ha dato Ornella uscire dal tuo riccio? Tantissimo, non riesco a quantificarlo. Possiamo parlare? Ornella può parlare, può certo dire qualcosina anche lei. Certo che può parlare. Tra l'altro Maurizio, non lo Dimmi. Sai, ma Ornella è una nostra ex collega. Sì, è una DJ. Molti anni fa. Faceva radio anche lei. Dimmi Ornella. Se lei è uscita dal riccio, io sono uscita dalla mia stanzetta dove suonavo con tutta calma, da sola, da anni, quello che volevo, il ritmo che mi piaceva, eccetera. Non è stato facile suonare insieme ad un'altra persona dopo anni di, sì, non so, cose tue personali. Musica classica. Suonate a un ritmo mio. Certo, capito. E ho dovuto seguire il ritmo suo. chiaramente, delle parole, certo, prima di tutto io seguo le sue parole. Io a momenti non seguo neanche il suo ritmo della chitarra, io seguo le parole. Ti danno la guida, praticamente mi danno la guida, e per certi interventi, certo, che io posso aver fatto in questi arrangiamenti che sono diversi dal CD, mi soffermo molto sulle sue ossessioni. Ah, ho capito. Sì, sono attratta nella scelta, per esempio, sì, casualmente, sì, visto che lei non fa le cose a tavolino in maniera razionale, la sua scelta lascia libero il soul nella maggior parte degli accordi. E per quelli che non sono addetti al sistema, che cosa vuol dire praticamente? Che negli accordi che lei ha scelto, sì, nella, ecco, scelta, perfetto, ha lasciato, c'è una questa corda di sol, sì, a parte un la minore, certo, è sempre libera. Ah, ho capito. Ed è ridondante e continua, cioè è una nota continua, e questa cosa mi ha cullato, e quindi ti ha dato la possibilità, sì, quindi di ampliare poi il discorso. Sì, di sentire, di poter dare qualcosa, come Mr. Right che abbiamo appena fatto, sì, certo, quando lei insiste in maniera balla che balla. Lì questo martello balla che balla, perché ripete due volte balla che balla, e lì mi è venuta un'altra cosa, quindi io seguo le sue parole, che definisco masticabili. Ah, perfetto. Cioè, si però masticano, non si balla che balla, senti in bocca, zitto. No, però il conto com'è? Sembra una canzone della Carrà, balla che non è la Carrà. No, il contributo di Ornella, come poi è stato quello di Davide, sono stati preziosissimi. Ripeto, loro sono musicisti, quindi poi per me un musicista prenderlo e dire ok, senti come nel disco. Allora, qua fammi i violini, qua fammi il pianoforte, qua fammi... E lei lo faceva, perché lei nella linea armonica che ha costruito sotto, in certi pezzi segue quello che nel disco, poi era l'arrangiamento, un pianoforte, sì, piuttosto che riempire gli spazi dei violini. Poi è arrivato Davide. Certo. Davide ha... E cosa ti ha dato il contrabbasso di Davide? Mi ha dato che lei si è un po' potuta deresponsabilizzare dei bassi, perché ovviamente non avendoli aveva costruito tutte le frasi armoniche, certo, con una presenza di bassi importanti. Abbiamo potuto così dare a Davide, ovviamente, questo impegno che poi è straordinario nella resa, e Ornella si è potuta concentrare su dei fraseggi più strutturati. Come avete fatto nel brano live, esatto, chiaramente. Esatto. Certo. Benissimo. Adesso ce ne fanno un'altra. Beh, certamente, sono appena le 21:30, abbiamo tempo fino alle 22:30. Sì. Ma guarda, allora, se noi, visto che Davide mi ha fatto parlare di Amnesty, sì, vi faremmo Se sarà femmina, che è appunto il pezzo che ha vinto il primo premio della sezione musica di Amnesty International, del concorso di Amnesty International, e quando voi volete noi ci siamo. Benissimo. Vivo coperta da un telo nero, ho l'anima appesa al muro, chiodi di mille anni, respiro soltanto e prego per chiedere quel perdono, perché non sono nata uomo, vivrei senza alcun castigo, esisto soltanto che io lo voglio o no, di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, un altro errore testimone, vado, cammino contando i passi, abitudine dei miei occhi, non devo vederne altri, cammino soltanto e penso, la notte dopo il suo amplesso, chissà cosa io non sento, cos'è quello che mi han tolto, mi chiedo soltanto io lo voglio o no, di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, di un altro errore testimone, che io lo voglio o no, di un altro uomo sarò madre se sarà femmina, di un altro errore testimone, siedo e mastico il mio silenzio, aspetto che sia il mio turno, finché non mi porge il piatto, finisco soltanto e vedo un'oasi con l'ombra intorno, dell'acqua col mio riflesso, ripetersi di un mio sogno, ma dormo soltanto che io lo voglio o no. Di un altro uomo sarò madre, se sarà femmina, di un altro errore testimone, che io lo voglio o no. Di un altro uomo sarò madre, se sarà femmina, di un altro errore testimone. Di mia madre cantava una canzone, diceva tutto questo c'è una consolazione, arriverà dal mare, arriverà col vento, ci comprerà ogni male pagando con l'argento. Gli uomini non sanno e non devono sapere che avremo spezie d'oro in cambio di ogni male, perciò bambina cara sopporta e non parlare, avrai ricchezza e pace, arriveranno dal mare, che io lo voglio o no. Di un altro uomo sarò madre. Se sarà femmina. Se sarà femmina. Se sarà femmina, Rai Berivale e i suoi musicisti. Pezzo molto bello, perché fino all'ultimo secondo, perché la nota del contrabbasso si deve sentire fino all'ultimo secondo, certo. Ed è essenziale. Pezzo molto bello, e molto bello perché anche c'è questo continuo discorso che tu fai musicalmente. Apri una porta, poi la richiudi e poi la riapri un'altra volta. E questo è il bello, la caratteristica fondamentale, secondo me, di questi 13 sequenze, 13 ritratti, 13 momenti di questo disco. Poi ce ne sono altri, il disco nuovo che uscirà, sì, certo. Per esempio, se sarà femmina, bene, vuol dire che comunque è una caratteristica positiva, certo. Che si protrae, perché sì. Se sarà femmina sarà eventualmente nel prossimo disco. Chiaro. Perché è un pezzo nuovo, come saranno altri che vi faremo questa sera. E... è una caratteristica che forse intrappola un po' l'attenzione, no? Sì, non intrappola nel senso positivo, sì, però certo. L'attenzione, cioè devi stare attento ad ogni piccolo piccolo cambiamento continuamente, perché se no perdi, non è che perdi il filo del discorso, però deve essere così, secondo me, e quello il bello del disco, il bello della tua proposta. Okay. Beh, sì. È così, no? Mi pare. Sì, mi sì, pare sì. Di aver intuito questo, insomma. Sì, anche in questo pezzo che io avevo sentito appena prima come prova. Sì. No? È un pezzo, anche questo è un pezzo popolare a proposito di danza, Davide. Non so se sei d'accordo o no. C'è una danza nascosta, ma che viene fuori. Lei esce, poi viene leggermente nascosta, sì, possiamo dirlo, e poi ritorna, perché è così, deve essere così. Stiamo facendo un sacco di complimenti a questa Levi. Sì, infatti ho detto andiamo a casa veramente gonfi e tronfi, perché... Ma credo siano meritatissimi. Io devo ricordare sempre che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, perché la state ascoltando. Le nostre frequenze 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, se volete mandare qualche messaggio o qualche saluto a questa splendida artista. Allora è lo 049 875 6423, se volete chiamare qui studio, mentre per gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Abbiamo anche la pagina Facebook semplicemente come Blu Radio Veneto, oppure c'è la pagina dedicata soprattutto alla musica rock gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, e lì si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara vi sta regalando, proprio il caso di dire, questa splendida artista friulana, diciamo così. Possiamo, Rai Berivale. Possiamo sottolineare una cosa ai nostri ascoltatori e hanno i nostri che hanno anche visto, ma è positivo secondo me. La ricerca della partitura giusta, ma questo è positivo, fa parte del trend, vuol dire che c'è pathos, si deve cercare quella giusta. è vero, bello, stiamo cercando. È una cosa positiva, mica quella negativa, sì. È proprio live, assolutamente live. Beh, per questa sera ci siamo detti, non prepariamo una scaletta, vediamo di cosa si parla, proprio in tranquillità, poi a seconda di quello che si dice... Certo. Allora, cosa stiamo dicendo adesso? Stavo parlando prima della musica popolare, sì. E quindi ero indecisa se dire, il prossimo pezzo facciamo questo o l'altro, che secondo me poteva sembrare più o meno popolare, quindi stavo facendo confusione a Davide Ornella, facendogli girare i fondi. Ma Ornella, cosa dici te, Ornella? Ma cosa vuoi che ti dica? Non ho parole a lei. Vi siete chiariti? Sì. Ci fate qualcosa adesso dal vivo ancora? Sì, questa è proprio la primissima volta che portiamo... fuori dalla nostra stanzetta prove questo pezzo, che è molto vecchio, è dello stampo un po' dell'ultimo canto di cui parlavamo prima. Certo. Si chiama Histoire Noire, ha solo il titolo in francese, poi in realtà è un pezzo in italiano, ed è ambientato, l'atmosfera si sente, è molto cupa, è un po' blues, un po' e parla dei paradossi dell'amore. Parla fondamentalmente l'immagine, un po' difficile, ma l'immagine è quella di due amanti che per un eccesso di diffidenza non si incontreranno mai, e quindi è una favola al contrario, e quindi noi si racconta questa favola al contrario con queste immagini un po'... Favola al contrario, parte con un lieto fine, metto un treno e tu un binario, e sulla stampa è scritto principessa muore, cacciatore vive. Una favola al contrario, nata da una compagno, razionalità e delirio, alla luce un biglietto con su scritto morta a causa di un veleno. Il villaggio sta in subbuglio, ci si chiede giorno e notte, sarà stato un omicidio oppure è stata fatta una scelta di autoprocurata morte. Io ti vedo principessa con in mano la tua fiala, il motivo una promessa che ho strappato alla tua fiala, il riflesso del tuo volto sulle canne di un fucile. Io ti vedo principessa, non ti lascerò morire. Una favola al contrario, dove ride chi non ama, le tue notti sotto assedio, mentre difendi un alleato che cosciente alle tue spalle trama. Una favola contraria, dove regna il paradosso, opinabile assassino, tu mascherata da bersaglio hai attirato la mia freccia addosso. Ti vedevo principessa conferrata dai tuoi paci, non potevo non pensare che perché ero una di quelli. Ti osservavo dalla torre soggiogare le pedine, mi dicevo non per lei, per lei io non dovrò morire. È così che è andata allora, ho voluto a tutti i costi esserti l'esatto opposto, nelle mosse tra gli intarsi, ma se avessi alzato gli occhi avrei visto tutto chiaro, era inutile sfidarci, entrambi giocavamo in nero. Contrario, la tem- inesistente, rovesciato lo scenario, dove il cattivo si innamora di una principessa diffidente, dove la redenzione è vana ed implorare non serve più a niente, dove una favola al contrario di una favola al contrario di una favola al contrario. Che meraviglia l'inizio, mi è piaciuto veramente tantissimo, insomma. E possiamo dire che il blues che poi viene allontanato, il blues ritorna, è una murder ballad, non propriamente una murder ballad, però è un umore nero, un umore oscuro, quello molto oscuro. E non sei Tom Waits, però insomma potevi anche esserlo all'inizio Tom Waits, poi sei andato in altre strade, poi sei ritornato alle strade solite. Vabbè, questo ho pensato io, eh. Ti porto dei saluti, Rebi. Allora, da parte di Amelie, che dice: ciao Ago, salutami Rebi, le mando un bacione e le faccio i complimentissimi. E poi dice che purtroppo non può ascoltare tutta la trasmissione perché deve andare a concerto. Beh, se sta ancora ascoltando, ciao Amelie, grazie, ci vediamo molto presto. Appoggio bustone. E poi Michele, che dice: Rebi e la sua gang potentissima. Contentissimi, poi dice, anche corregge anche. Grazie Michele. Su Facebook mi ha scritto sulla mia pagina. E poi ancora è arrivato un SMS che dice: ma che bravi e belli anche. Grazie Blu Radio, grandi ospiti. No, è Davide che fa la differenza. Vi ricordo il nostro numero di cellulare se volete mandarci i vostri SMS qui a Rebi Rivale e i suoi musicisti. Allora 346 23 20 033. Questa è Blu Radio Veneto. Rebi, come hai trovato l'etichetta, quella di Milano, la MAP? Come fanno tutti. Cioè, spedito, hai mandato qualcosa? Sì. Hai spedito qualcosa? Ho spedito Massimo Monti, che è appunto colui che dirige l'etichetta, la MAP, e si è interessato in maniera particolare. Diciamo che non mi ha mollato per molto tempo. Vedi, aveva fatto bene. Poi abbiamo avuto un incontro, ci siamo chiariti e lui ha deciso di investire su di me. Di investire totalmente su di me, cosa rara, diciamo, certo. Agli agenti viene chiesto un contributo, su questo ci siamo chiariti subito. Ah, perfetto. E lui ha voluto lo stesso investire su di me e quindi io mi sono affidata, altro in cui siamo. Così gli emergenti purtroppo non possono fare altro a un certo punto, possono informarsi, possono chiedere a chi ha già avuto esperienza. Mi sono fidata, è andata bene, è una persona straordinaria, che saluto se ci sta ascoltando. Certamente, una anche cosa da parte nostra, un saluto da parte nostra. Ha fatto una cosa molto positiva, fidandosi e portando avanti un discorso di emergenti, come tu giustamente hai detto. Adesso l'emergente o se lo fa il disco da solo, oppure trova un manager, sì, però il manager non ha sempre la possibilità di fare quello che vuole. Infatti. E quindi ci sono dei paletti da rispettare, mentre in questo caso giustamente non ci hanno paletti, c'è solo la tua musica, e questo è cosa che conta. Sì, positivo. Devo dargli anche atto che mi ha lasciato carta bianca, mi ha lasciato scegliere arrangiamenti piuttosto che altro, quindi. Il che è raro, perché di solito ci mettono sempre le mani a gusto loro, ovviamente, insomma. Bene, cosa dice Agostino? Sentiamo un pezzo da disco adesso, sì, così li facciamo, così facciamo riposare un momento. Allora. Va bene così, sì. Dicono di sì. Allora, abbiamo scelto Prigione di piume, se non sbaglio. Sì, un pezzo rock, poi ne parliamo ampiamente, ok? Ok. Spiegami. Se vuoi, l'angelo in me, la tua immagine un alibi facile. La prigione di piume che tu vuoi per me, guardami. Io nonno un volo, sai. Dai, guardami. Divento fuoco rosso, se io vivo brucio, se io brucio vivo e sentimi. Se puoi, non mi serve la tua paura, è solo pelle nuda e sa di verità. È il colore di cui non vuoi tingermi. È il sapore con cui non sai vivere. Guardami, divento fuoco rosso, se io vivo brucio, se io brucio vivo e toccami. Preparati che scotta questa nuova donna, sono la tua idea rovescia e tu sappimi così. A testa in giù, come Lucifero, senza fede d'ali, senza pace veli addosso. Resta dove sei, se non sono io quel che tu vuoi. Resto dove tu non hai la forza di dipingermi diversa. Ma qui resto immobile. Puoi prendermi se cambi o scordi la tua idea di santità e magia. Guardami. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Pezzo rock. Sì, perché pezzo rock, perché io parlavo con Ornella adesso a microfono spento, però Ornella è una rockettara al 100%. Giustamente la Rebby mi dice: poteva suonare la Gibson? Ma certo che può suonare, cioè, la Gibson. È pronta per è lei. È pronta per lei. È un pezzo rock questo qua, con certi andamenti, ma poi sfocia in un pezzo rock. È poco da fare. Davide, sei d'accordo che è un pezzo rock? Beh, è rockissimo. È rockissimo, sì. Il pezzo è rockissimo. Tu sei un musicista rock, la tua band non l'ho mai sentita, ma belleggia sul rock oppure no? Ma io ho una formazione, in culla ascoltavo le Zeppelin di questo Papo, va benissimo. Una formazione allora. Hard rock. Ho capito. E poi mi sono aperto alla musica etnica, così interessandomi. Ma l'etnica fa sempre un buon feeling col rock. Sì, eh. Sì, per questo avevo iniziato col basso elettrico, sono passato al basso acustico. E cercando sempre suoni più caldi sono passato al contrabbasso. E con il 1 1/4 facciamo musica folk, etno-folk, un po' in friulano, un po' in italiano. Bene, io ho ospitato qua due anni fa, Luigi Maieron, che lo conosco. Certo. È venuto qua, ha presentato un suo disco, tutto in friulano, bravissimo, straordinario. Due volte, ha presentato due dischi, è venuto un periodo e poi è venuto il periodo dopo. Molto bello, molto interessante, un musicista sconosciuto all'epoca, ma poi lentamente, progressivamente, grazie alle giuste cose, è venuto fuori. Bravissimo. Qua in Triveneto ci sono bravi artisti. Bravi cantanti. Sì, sì, non metto in dubbio, veramente c'è qualcosa che si sta muovendo, anche sai cosa si sta muovendo molto anche? Bergamo e Brescia, ci sono moltissimi gruppi là che fanno proprio live e trovano soprattutto locali che ospitano gente che fa live, qua è un po' più difficile, non so da voi le vostre parti. Beh, poi c'è anche da dire che oltre a essere difficile, anche il genere non aiuta. No, il genere non aiuta. Il genere non aiuta perché è un genere intimista, quindi deve essere un certo tipo di locale. Non è quel locale che fa, non è quella musica che fa ballare sui tavoli e fa bere 14 litri di birra a testa. Ma se l'Ornella prende la Gibson, allora. Sì, la facciamo. Possono cambiare. Allora, un piccolo discorso su questo pezzo, rock, come è nato così rock? Il testo è molto bello, ma musicalmente perché è nato rock? Guarda, qui c'è proprio la costruzione di un pezzo con tutti i ruoli ben definiti. Il compositore, la compositrice è Eleonora Jones, all'anagrafe Eleonora Bonzano. Perfetto. È una bravissima chitarrista che io ho conosciuto in Umbria e quindi è nata in acustico, è nata in arpeggio. Abbiamo conosciuto poi, mi ha chiesto di mettere il testo. Certo. E quindi io l'ho pensato anche poi su delle emozioni, su delle dritte, diciamo, su delle direttive che mi aveva dato lei. Certo. Poi conoscevamo un amico nostro, Emiliano Duncan Barbieri. Sì, esatto, che ha fatto gli arrangiamenti. Che ha provato gli arrangiamenti. Questo arrangiamento, anche se era diversissimo dalla prima versione acustica, ci è sembrato il migliore, quello che proprio ottimizzava il tutto. E tutte le cose si sono unite. E io l'ho voluto fortemente mettere nell'album perché io credo moltissimo nelle collaborazioni. E a proposito dell'album, chi collabora nel tuo album, questo che è uscito da qualche mese, quello nuovo non lo so, ma in questo disco? Beh, allora, a parte Duncan che ha arrangiato questo pezzo e anche Decido Io. Che è un molto swing, secondo me. Sì, sì, ma Duncan è un polistrumentista eccezionale. E poi appunto Eleonora Jones, che ha composto Prigione di Piume. In studio siamo riusciti solo proprio per una questione di tempi, perché io sono entrata in studio prima di rendere il rapporto con Ornella più solido. Quindi Ornella, in studio Ornella c'è soltanto su Chez Simon, perché ho voluto mantenere la traccia sua, e dopodiché tutto il resto era già registrato. Ah, ok, prima. Era già pronto praticamente. C'è Filippo Rocca, un mio amico di Aosta, che suona le chitarre in ali, e Enzo Camporeale, che suona la fisarmonica in Lola. Che ho è capito. Stato poi il fonico e il collaboratore della MAP che ha missato in studio. La produzione è tua o la produzione? La produzione MAP. È MAP, direttamente MAP, sì. Tu ti hai dato una mano sostanzialmente. Io ho portato gli arrangiamenti. Gli arrangiamenti, esattamente. Ho portato gli arrangiamenti, sì. Ok, benissimo. Un saluto e anche un invito a te, Rebi. Dice questo messaggio: è possibile ascoltare Iride? Bravissimi, vi stiamo ascoltando, Stefania e Katia. Ciao Cici, ciao Stefania, ciao Katia. Sì, non era in scaletta, ma lo facciamo. Facciamo come Elvis Costello. Stefania, sabato ti vedo, le prendi. Allora, già che ci siamo, le approfitto anche per salutare un artista che sarà giovedì prossimo qui presente a fare live qui a Blu Radio Veneto. Viene da Genova, è un pianista e ci sta ascoltando da quel di Genova, appunto. Quindi ciao Alberto Musso, che sarà presente alle ore 21 di giovedì prossimo. Allora, cosa ci fai ascoltare Iride allora adesso? Allora, adesso faremo Iride. Quando sei pronta me lo dici. Che è un pezzo che parla in realtà dell'energia, o si può interpretare in molti modi. Noi la definiamo, Ornella la definisce un viaggio, ed è effettivamente un viaggio nel tempo e nello spazio. L'Iride è una porta. È una porta di comunicazione, è una porta per l'energia, per riconoscersi. Il discorso potrebbe essere approfondito per ore. Ma è nel disco nuovo? Perché no, non è entrato nel disco. Non è entrato nel disco per un pelo. È stato fra i pezzi scelti di lasciar fuori. Ma farà parte del prossimo. Per una questione di coerenza col progetto. Sono state tolte alcuni pezzi. Sono state tolte due canzoni un po' più sentimentali, perché non si sposavano con un progetto che era di un colore differente. Quindi questo è un pezzo che ci viene chiesto spesso dal vivo, molte volte dalla Stefania appunto, ma a parte questo, è un pezzo che parla dell'energia che non si esaurisce mai. Sono cose dentro qui che restano sempre, ricordi o fate vigili di un altro. dentro presente. Non c'è memoria del perché. Non c'è lo spazio nel tempo. L'entrata è dietro l'iride. Un'altra porta del mondo. Sono le mani sulle mie, quelle parole che ascolto. E la memoria un brivido, a volte privo di senso. E trovo pagine di te accartocciate in un pugno. E trovo immagini di me interrogandoti in sogno. Noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. Ci sono cose dentro qui, in attesa da sempre, nascoste bene immobili, finché qualcuno le scorge. E riconoscersi non è guardare indietro negli anni, perché c'è un tempo che non c'è, di cui rimangono segni. E proprio dentro l'iride, teatro col suo sipario, si vede quello che non c'è, come un racconto al contrario. E quando gli occhi dormono, c'è qualcun altro sul palco che ha già vissuto dentro noi, portando via ogni ricordo. Noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. Di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. E noi che c'eravamo prima di sapere chi eravamo, prima della mano mia nella tua mano, prima dei tuoi occhi. È come navigare per cent'anni fianco a fianco sullo stesso mare, all'improvviso togliere le vele e poi guardarsi. Bravissima, era un po' difficile. Era però hai detto una cosa giusta. Musicalmente sicuramente non entrava nei 13 pezzi, secondo me. Posso dire, era una canzone un pop vicino al cantautorato, ma molto bella, molto gradevole, accattivante anche come andamento. Sì, l'arrangiamento tra l'altro costruito sopra era un rock. Esattamente. E sì. Quindi io ho deciso di mettere Prigione perché comunque il testo era importante. Sì, certo, quello sì. E proprio per il discorso della collaborazione. Poi su tutte le altre vedremo il prossimo progetto. Benissimo, in ogni caso è un pezzo molto bello anche questo, molto avvincente, accattivante, prende immediatamente. Grazie. Per quello forse l'Irene l'ha voluto sentire. Sì, è la Stefania. La Stefania, non Irene. Sì. Stefania, scusa. I complimenti arrivano anche a Davide. Dicono fai i complimenti al contrabbassista. Hai grazie, visto? Grazie. Da parte di Alberto che ti sta ascoltando da Genova. Grazie Alberto. Allora, Raibi, ci siamo dimenticati di dire le tue notizie tecniche, tra virgolette. Cioè sì. Il sito dove si può acquistare il disco, come ti si può contattare, eccetera eccetera. Allora, mi trovate su Facebook come Raibi Rivale. E il disco si può comprare, è edito dalla MAP, si può comprare online, è distribuito da Halidon, quindi il sito per acquistare il disco è www.halidon.it, dove si può acquistare sia il CD, il supporto fisico, sia in download le tracce singole. Siamo su MySpace, sono su MySpace, quindi www.myspace.com/rabirivale. E tenete d'occhio gli appuntamenti dal vivo. E quali sono? Beh, adesso abbiamo finito una serie di serate live perché ci stiamo concentrando. La settimana prossima partiremo alla Volta di Salerno e siamo in finale a Botteghe d'Autore con il caso Campana. Bellissimo, di cui parlavamo prima, che poi vi canteremo. Bene. E poi siamo appunto in finale a Poggio Bustone il 9 settembre con Mr. Hyde. poi avremo una serata all'Aquila il 10 settembre, un live nostro, e poi tra ottobre e novembre siamo in finale al premio Donida, al premio Carlo Donida a Milano, al Teatro San Babila, il 22-23 novembre, ecco. Molto importante. Questo è importante, sì, questo, certo. Questo è per compositori, quindi... Certo. Sono sorpresa e contenta di essere. In finale, sì. Bene. Ma infatti io cercavo un po' in giro, così quando mi dilettavo le sere precedenti, così di te, eccetera. Ti trovavo veramente dappertutto, in finale dappertutto nei vari concorsi. Questo credo, come dicevo prima, sia una grandissima, come dire, soddisfazione da parte tua. Sì, è una grande, quest'anno veramente ci siamo... Che quello che fai è recepito prima di tutto e poi... Sì. Insomma, hai quantificato la tua bravura, insomma. Beh, io di questo ti ringrazio, questo poi lo vedremo. C'è una giuria, a parte che poi la giuria più forte e più importante per noi è sempre la gente seduta, quelli seduti dietro la giuria, è vero, quelli, le persone comuni, semplici, che ci fermano e ci dicono: bravi, ci è piaciuto. Per noi, certo, quello vale più di un trofeo, quindi questo è sempre vero. È vero, è vero, qui ti do pienamente ragione. Allora, ci ascoltiamo un po' di, oppure tutto, Caso Campana? È un grande pezzo il Caso Campana. Cosa? No, bello, allora, così, deve essere così, Agostino. Vabbè, è come Elvis Costello, si dà un input e il musicista cerca la partitura giusta. Non vorrei scombussolare tutto, però. Si fa così. Io devo solo dire grazie a Rebby, perché mi sta veramente regalando tutte le gioie possibili e immaginare. Se non ci sono problemi, ovviamente, Rebby. Sei pronta? Sono pronta, quindi adesso cantiamo Caso Campana, che è una parte della storia del poeta Dino Campana. Caso Campana perché? Perché io cercavo il numero della cartella clinica di Dino Campana, che ha terminato gli ultimi 14 anni della sua vita in quello che erano un manicomio. Esatto. Ed è un pezzo che parla... In cui c'è parte di storia e parte di fantasia, nel senso che poi la sua storia è lunga e non vado avanti le ore a spiegarle. Ad ogni modo, posto che abbia vissuto un amore grande nella sua vita, e che comunque fosse una persona psicotica, era una persona disturbata, io lo immagino in questi ultimi 14 anni, durante i quali un medico in particolare, questa realtà, si accaniva nel fare delle domande, nel sapere delle cose, perché stava studiando le relazioni fra pazzia e arte. E mi immagino un Dino Campana esausto che non vuole ricordare questo unico grande amore che ha vissuto. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Scrivo cosa non so, sono un povero diavolo che scrive come sente, mani di un povero diavolo che scrivono col sangue. Solo, ero libero e solo. Ho vissuto volando tra falchi e puttane, diviso anima e corpo, scrivendo parole di vento, di nuvole, di ombre, di terra, di sole. Ah, vi scongiuro, dottore, tutte queste domande divorano il cuore. Non so più se è reale o soltanto invenzione. Fumo di rose volute in attese, cercate, trovate, sfregiate di lacrime e sangue e di spine, se solo sapessi come dimenticare il rumore di petali addosso a quel viaggio che noi chiamavamo amore. Mi hanno ucciso l'amore. E io non so un altro sogno, una consolazione, se sono vivo da un secolo, una sola stagione. Via, per andare lontano, dalle voci, dagli occhi che mi hanno impazzito, che gridavano il matto, sapeste, dottore, che fatica restare che grande coraggio ci vuole. La mia testa che esplode, non sentite un rumore lontano franare, non so più se il mio mondo, la pioggia che cade, un profumo di rose volute in attese, cercate, trovate, sfregiate di lacrime e sangue e di spine, se solo sapessi come dimenticare. E sfiorite le rose, che cosa è rimasto? Un amore strappato di mano, poi perso. Erano mie le sue rose di giorni mai stati, erano sue le mie rose, poi dimenticate. In quel viaggio che noi chiamavamo amore. Ci hanno ucciso l'amore e io non ho più risposte, non voglio parlare e dimentico un nome, il suo nome, il mio nome. E io c'ho i brividi. È un pezzo strabiliante questo, veramente bellissimo. Poi la tua voce cavalca il pezzo, si arrampica il pezzo. Qua non c'è solo il contrabbasso, ma nel disco ci sono anche gli archi danno una sensazione proprio di morte in alcuni momenti e di amore in altri. E anche musicalmente, oltre a un testo meraviglioso, musicalmente hai proprio centrato l'immagine di questo poeta straordinario che veniva bersagliato, non si sa come, veniva proprio preso nel suo intimo, in modo ingiusto, assolutamente ingiusto. Guarda, su Dino Campana ti devo dire questo, io non lo conoscevo, devo fare questa missione di colpa. Non lo conoscevo se non proprio di nome, ma non avevo studiato l'opera. Mi è successo per una serie di cose di approfondirla, ho voluto leggere tutto, e sono contenta quando, cioè mi dispiace da una parte, ma sono contenta quando le persone mi dicono, mi scrivono, mi puoi spiegare bene cosa è successo a questo Campana? E lì è bellissimo, lì è bello perché mi immagino le persone che hanno fatto quello che ho fatto io, quindi che vanno a prendere un libro, due, vanno a vedersi il film. Certo. E questa è una cosa che a me piace tantissimo, perché comunque è un poeta minore, non sì, è conosciuto, sì. Non è... Però è un poeta minore, sì, però è un poeta che ha determinate cose molto molto interessanti. Certo, è certo. Quindi sì. Poeta minore sì, perché non ha avuto il modo di potersi farsi conoscere alla grande vastità del pubblico, però... Certo. Ok. Qui è arrivato un complimento anche per te, Ornella, Non so se sia per par condicio, ma comunque dice la chitarrista classica è bravissima, tanti complimenti. Sarei contenta che tu vedi, parte di gloria ci vuole. In odore di rock, sempre in odore di rock. E ormai t'ho battezzata così. Non importa, non importa, sei sempre in odore di rock. Rossa, sì. Gibson rossa. Bella Gibson rossa, un ottimo successo. Okay. Allora, Raby, cosa hai in mente adesso? Cosa avevi in mente? Musicalmente parlando, sto parlando. Ma musicalmente noi eravamo pronti a farvi sentire un altro inedito, un altro del pezzo che non è nel disco. Io non lo so se a voi fa piacere o meno che noi ci concentriamo di più o meno sul disco. A noi fa piacere se tu canti. Grazie. A noi fa piacere proporre la tua voce, la tua musica, quello che sei. Sei qui per questo, ci abbiamo voluto per farti conoscere soprattutto, perché ci stanno ascoltando un po' in tutto il mondo, quindi insomma è giusto che tu sei conosciuta tramite lo streaming, ovviamente, ci stanno ascoltando dappertutto. Bene. Quindi quello che tu vuoi ascoltare e fare, anzi scusa, è lo scegli tu. Bene, allora il prossimo pezzo che vi presentiamo si chiama Musicante. Sì. Ed è un pezzo popolare, poi mi dirai, mi confermerai tu se sì. lo sarà o sì. meno. Vediamo subito. Ed è un pezzo che parla un po' di quello che siamo noi, ma non soltanto io, Davide Ornella. Noi gli emergenti, noi menestrelli cantautori. È quello che, secondo il mio punto di vista, dovremmo, potremmo e vogliamo fare. Un po' questi gnometti sparsi che raccolgono delle opinioni e le mettono in musica. Quindi questo è per tutti i musicanti. Blu Radio Sera. vuoi diventare l'aria parole. Canta di gente che piange, che ride, canta di pancia, canta di cuore. Canta chi ha perso, a chi cerca l'amore. Canta per tutti, canta per uno, fosse anche l'unico ad essere cattivo. Che una ragione si trova sempre, un musicante. Canta il dramma di un altro in una canzone. Vivigli addosso fino a stare male. Senti nel vuoto, senti il dolore. Senti sul volto le lacrime amare. E non lamentarti del tuo mestiere, che non c'è altro che tu possa fare se non confonderti tra le esistenze. Oh musicante, esci e ricopriti di carta a carbone. Segna la pelle di tutte le cose. Guarda e poi scriviti ogni impressione. Oh musicante, fai il tuo dovere. Canta per dar fastidio a chi non ha tempo. Canta gli addosso che vivere è un lampo. Canta la gioia a chi non ricorda. Canta la morte a chi non si ferma. E fagli vedere un altro colore dentro lo specchio del bene e del male. Fai che la lingua sia incandescente. Oh musicante, canta, mescola i sogni e le storie più vere, che chiusi gli occhi si possano vedere. Prendi la mira senza sparare, lascia decidere le alternative. Muoviti svelto, non far rumore, vai dove l'ordine copre le cose. Porta via tutto come un torrente, oh musicante. Esci e ricopriti di carta a carbone. Segna la pelle di tutte le cose. Guarda e poi scriviti ogni impressione. Oh musicante, fai il tuo dovere. Cose, ogni impressione, fai il tuo mestiere. Non mi sono sbagliato di tanto quando dicevo D'André versione femminile. C'è stato veramente un momento in questa canzone che eri lui, più o meno. Sì. Beh, io ti ripeto, io ti ringrazio, perché non si può fare altro che dir grazie, però è un paragone proprio, proprio super, super, super. No, ma è vero, se vi ricordate veramente le sue sonorità, il suo modo di cantare, di esprimersi, di far sentire i live suoi, ci sei veramente. Beh, grazie tante. Questo è un pezzo del vagabondare, perché i Sansonier vagabondano, cioè girano, percorrono chilometri, piazze a ricerca di sensazioni, di emozioni. Tanti anni fa un certo signore, si chiamava Francesco De Gregori, gli ha scritto un pezzo, si chiama I Musicanti, leggermente diverso dal tuo, però anche lui aveva tutti i violini, durava solo 2 minuti e 30, era un pezzo velocissimo, finiva subito, ma aveva quel modo di impostare la musica con i violini, con gli archi. Tu non l'hai impostato con gli archi, ma andava benissimo anche con gli archi, secondo me. È proprio il vagabondale, il sansonier, il cantastorie. Al femminile, ma non vuol dire niente, è sempre un cantastorie. È popolare al 100%, questo ecco. È vero. Rebi, come sarà il prossimo disco? Sarà sulla falsa riga del primo o cambi completamente? ti proponi in un'altra maniera? Beh, se vuoi sapere se sarà un disco con degli arrangiamenti prevalentemente rock o elettronici o elettrici, la risposta è no. Ah. No, qualche cosa rimane, rimarrà, è una mia volontà di seguire una linea. Certo che ci saranno dei pezzi diversi, perché poi a me piace poi saltare da un pezzo all'altro. Come diceva Maurizio prima. Ci saranno, come in questo disco sia Lola che L'ultimo canto, che Ali, ma prevalentemente i primi due sono pezzi molto vecchi, tra i primi che io ho scritto. E ci sarà anche nel prossimo due o tre pezzi come Histoire Noire, quello che abbiamo suonato prima, che sono datati, ma che poi riarrangiandoli con i ragazzi sono tornati su in scaletta. Quindi ci saranno dei pezzi datati e di un certo stile cantautorale. Ci saranno degli altri pezzi forse un po' più, non voglio dire pop, perché riesco male a sposare il pop con una certa importanza che voglio dare ai testi, senza nulla togliere a un certo. pop di qualità che c'è, certo, che esiste, che c'è, sì. che esiste. Perché pop vuol dire popolare, quindi, esatto. Quindi si allarga, sì, sì, sì, certo. il discorso. E sì, io parlavo proprio in termini di arrangiamenti. Sì, ho capito. Io sono più sulle ballate, quindi su questo incedere su un po' più incalzante. Poi quello che nasce, certo. sai te. Allora, siccome ci sta ascoltando il mondo, ce la fai una promessa? Dimmi. La strappo una promessa? E dimmi. Ce la vieni a presentare qui il disco nuovo? Eh certo, sicuramente. Certo, certo. Allora avremo l'esclusiva di avere la nuova produzione di Rebi Rivale. Io... Siccome mancano 12 minuti circa alla fine, due pezzi ce li facciamo, vero? Ok. Allora ce la facciamo prima uno, cosa ci fai ascoltare? Allora noi facciamo Lola, che è sì, il disco. Dovete fare Lola, è un pezzo basco, musica zigana, musica spagnola. Si va in Spagna adesso. Si va in Spagna. Anche questo pezzo ha partecipato come seconda track al concorso di Amnesty e tra l'altro si è piazzato secondo. È un pezzo che parla di un amore diverso, è ambientato nella Spagna franchista, quindi parliamo del secolo scorso, dove la repressione toccava anche questi ambiti. È la storia di due donne, ma è purtroppo è un pezzo attuale. Io poi adesso non è per collegarmi ad Amnesty, ma proprio a un comune senso di purtroppo è un pezzo attuale, perché una scelta di un amore di questo tipo, porta in tanti paesi del mondo ancora delle punizioni corporali piuttosto che alla morte. E quindi qua è un po' più soft, ma esiste ancora. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Se ascolti in silenzio, si sente una radio che canta. Di là c'è qualcuno che piange. È Lola che soffre d'amore, è Lola che piange in spagnolo. Ma non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca. Spagna ha lasciato il suo cuore, suo padre, sua madre, un fratello. La Spagna ha bandito il suo amore, la sua terra ha bandito il suo amore. Ha fatto i bagagli di fretta, scrivendo te chiero d'ognuno. Ma non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca. È Lola che ama una donna, è Lola amava una donna, è Lola aveva una donna, è Lola amava una donna. Lei aveva il nome di un fiore, lei aveva un uomo e due bimbi, e lei si era fatta scoprire, sì, lei si era fatta. Belle come cielo e mare, mentirono sempre con tutti. Loro avevano un covo d'amore, loro avevano un covo d'amore. E ora Lola piange una donna, e Lola piange una donna. E Lola ha lasciato una donna, in Spagna c'è la sua donna. A bruciare, sì, lasciando le vesti a bruciare. A Lola hanno dato un biglietto dicendole devi partire. E quel fiore è rimasto a bruciare, sì, quel fiore è rimasto a bruciare. E Lola aveva una donna, e Lola avrà sempre una donna. Di là c'è qualcuno che piange, sì, di là c'è qualcuno. E Lola che soffre d'amore, e Lola che piange in spagnolo. Ma non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca, no, non è Barcellona che manca. Con tanto di... Come si chiama? Guado. Finale assolutamente spagnoleggiante, decisamente. Poi Ornella con la chitarra classica faceva proprio lo spagnoleggiante, i giri armonici, proprio ideali, i famosi chitarristi spagnoli, ecco. Io sono ignorante dal punto di vista di quel genere là, però io mi ricordo Paco de Lucía, quindi una cosa, uno, un qualcosina, insomma, grandissimo. Ok, pezzo meraviglioso, bellissimo, con un andamento proprio col pathos che ci doveva essere il pezzo. E musicalmente non c'era la fisarmonica, ma va bene lo stesso. No, non c'era la fisarmonica, ma va bene. Va bene lo stesso. Ci sarà la prossima volta. Ci sarà la prossima volta. Però è già positivo questo, assolutamente. Allora, quando hai abbiamo un contrabbasso, cosa te ne fai? Vero, è vero, però va bene, va bene. Bravo Daniele, hai ragione. Ho detto una cosa che non dovevo dire. Allora, siamo arrivati alla fine, Revi. Purtroppo il tempo vola, lo sai meglio di me, quando si sta in compagnia il tempo passa inesorabile in una maniera velocissima. Allora, ricordiamo velocemente i tuoi indirizzi, eccetera, eccetera, le tue cose tecniche. Ok, Revi Rivale mi trovate su Facebook, su www.myspace.com/Revi Rivale. E l'album è in vendita sul sito della Halidon con l'H davanti, quindi www.halidon.it. E seguiteci nei live. Che è importante. Che è molto importante. Ma il prossimo live non lo sai qual è? No, ancora no, perché ci stiamo concentrati su Salerno, sì. Ma subito dopo te lo farò sapere. Certo. Se, vedi di farne uno qui in zona magari. Sì. Sì, volentieri, volentieri. Così veniamo a sentire, certo, tutti quanti, anche noi della radio. Allora, Agostino Spolaora vi dà un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano con Alberto Prisco e la sua musica rock, la sua classifica rock wave, ovviamente. Vi do l'appuntamento a domani sera. E domani sera abbiamo Giulia Villalta. Domani sera andiamo in Toscana. Sì, dobbiamo andiamo in Toscana, da Firenze, via. Abbiamo Giulia Villalta. Esattamente. E poi vi aspetto, meglio ancora, giovedì prossimo con tutt'altra musica, un pianista da Genova, Alberto Lupi Musso, sempre qui alle ore 21. Rebi, io ti aspetto nuovamente per il prossimo disco, come ci hai promesso in diretta, certo, non certo. Puoi dirmi di no. Non mancherò. Ti ringraziamo veramente, ovviamente, di cuore di aver accettato l'invito. Grazie a voi, a Blu Radio Veneto, Blu Veneto Radio, anzi. No, Blu Radio Veneto. Era giusto, Blu Radio Veneto, fatto giusto. Sì, e giusto. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare anche Ornella Tosini e Davide Sciacchitano, i miei compagni di disavventura che mi certo. accompagnano ovunque, e grazie ancora. E grazie della musica che ci hai regalato. Grazie adesso a te, delle emozioni che ci hai regalato, tanti pezzi dal vivo, e questa è una cosa fondamentale, proprio la caratteristica di questa trasmissione. Penso andrà avanti proprio così. Quella è la caratteristica di questo programma, e quindi deve essere così, assolutamente. È un po' la nostra politica, quella, certo, di far certo. ascoltare. Poi quando abbiamo musicisti di questo genere, beh, insomma, certo. siamo a posto. Cosa ci fai ascoltare per salutarci? Allora, per salutarvi vi facciamo sentire un altro pezzo inedito, si intitola Il pupazzo rotto. Ok, puoi partire. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Troppo tardi portarmi indietro, garanzia oltre il limite. Non ti cambiano più il prodotto, te lo tieni ormai, mi tieni ormai, mi tieni ormai. Hai comprato un pupazzo rotto, hai pensato l'ha giusto io. Ma non trovi nessun ricambio e mi tieni ormai, mi tieni ormai, mi tieni ormai. So fare cose che non sai. La notte imparo i sogni tuoi. Ma non è questo che tu vuoi. perché non parlo, io non parlo. E tu ti arrabbi se non sai quello che penso. Però io penso, non faccio altro a come togliere i miei fili da ogni punto. Che cosa credi sia senza cuore? Cosa darei per il volume e le parole? Ma come vedi, non lo so fare. Anomalia di fabbricazione o aspettativa ingannevole, qualunque sia la motivazione, tu mi tieni ormai, mi tieni ormai, mi tieni ormai. Non mi alimento, non parlo inglese, non ho pulsanti per ridere ed ho imparato a non far rumore. Tu mi tieni ormai, mi tieni ormai, mi tieni ormai. E sento cose che non sai. Di giorno aspetto i sogni tuoi, ma non è questo che tu vuoi. Perché non parlo, io non parlo. E tu ti arrabbi se non sai quello che penso. Però io penso, non faccio altro a come togliere i miei fili da ogni punto. Che cosa credi sia senza cuore? Cosa darei per il volume e le parole? Ma come vedi, non lo so fare. Io non parlo, io non parlo. E tu ti incazzi se non sai quello che penso. Però io penso, non faccio altro a come togliere i miei fili da ogni punto. Che cosa credi sia senza cuore? Cosa darei per il volume e le parole? Ma come vedi, non lo so fare. E come vedi, non lo so fare. E come vedi, non lo so fare. So fare cose che non sai. La notte aspetto i sogni tuoi. Ho gli occhi aperti io, ma non parlo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.